Enthusiasm. Oh Conte, deciditi, Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Vabbè, adesso insomma, fare il verso al Presidente del Consiglio, ci vuole un po' più di rispetto istituzionale, caro ascoltatore che mandi la presigla. Va bene, ci siamo qui, una nuova puntata di Uno, nessuno, 100 Milan, in diretta qui su Radio 24, siamo in compagnia con voi fino alle 11, come ormai sapete, e potete contattarci con i soliti numeri, 800 24 0024, questo è il numero per chiamarci, e poi se volete 349 238 6666 il numero consueto, lo sapete, solito, per i vostri WhatsApp, i vostri SMS. Ma Alino, hai anche te WhatsApp? Sì? Ma non è, crede. Sì. Sì, ce l'abbiamo, ci siamo attrezzati qui a Uno Nessuno 100.000, abbiamo tutto, abbiamo anche una valida redazione, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, abbiamo un grande in regia, l'Alpino, abbiamo Laura Faggin che ci supporta, ma cosa volete di più? Qui ci stava bene l'applauso, caro Alpino, però va bene, allora cosa volete di più? Volete ascoltare temi, spero, interessanti. Oggi ci collegheremo tra poco con la Cina, avete sentito, riparte a Pechino. Noi ci collegheremo con Wuhan, con uno dei nostri inviati che abbiamo imparato ad apprezzare, inviati tra virgolette, amici di Radio 24 che chiamiamo ogni tanto. Parleremo di scuola, parleremo con Nando Pagnoncelli di politica, di sondaggi, insomma, sì, c'è anche questo. Ah, c'è anche questo. Sì, c'è anche questo. Alpino, vai. Enthusiasm, ecco, about the future. Ecco, scusate se proprio quando torno alla politica il pensiero, cioè il tono un po' scema, devo dire che ho guardato i giornali, ragazzi, siamo tornati alla normalità, pagine e pagine sulla possibile crisi di governo, vabbè c'è anche tutta questa storia del Venezuela, i soldi dal Venezuela, non è vero, quereliamo, adesso ne parliamo. E io ho avuto un pensiero per un attimo, terribile, mi vergogno a dirlo per rispetto di tutte le persone che hanno sofferto e stanno soffrendo per il coronavirus, ma quando ho visto le paginate sui giornali di politica ho detto no, per favore ridatemi l'argomento del coronavirus, lo trovo quasi più interessante. Perché mi sono imbattuto su un articolo sul Corriere della Sera, molto ben informato come sempre di Francesco Verderami, sul Germanicum, cioè si torna a parlare di legge e di riforma elettorale. Signori, io quando ho visto questo a pagina 6 con richiamo in prima pagina, un'intera pagina su come si riposizionano i partiti in vista della riforma elettorale in corso, la 746esima, non lo so più, settimana decisiva per la riforma elettorale, il Germanicum. Però se ne torna a parlare da settembre, state tranquilli, vi lasciamo ancora un po' di tregua, sembra il coronavirus, vi lasciamo, ecco, dovrebbe essere la politica chiacchierata così, peggio del coronavirus, vi lasciamo tranquilli ancora l'estate. Poi, a settembre arriva la vera ondata, che non è quella del coronavirus, il dibattito sul Germanicum, che secondo me è peggio. È peggio, potrebbe essere moralmente è peggio, psicologicamente è peggio. Arriva la seconda ondata, il dibattito politico sulla riforma elettorale e sulla questione del riposizionamento di governo. Dopodiché, che dire di questa storia della valigetta? Vabbè, su tutti i giornali leggerete. È il momento di capire se sia un falso o no questo documento che secondo il quotidiano ABC spagnolo testimonierebbe l'avvenuto passaggio di 3 milioni e mezzo di dollari dalla Venezuela a Casaleggio padre, che effettivamente questa è una cosa brutta, non è qui più in vita per difendersi, però c'è il figlio che dice partiranno le querele, il movimento. Il console venezuelano a Milano, che sarebbe stato il tramite, colui che proprio ha portato la valigetta, e che dice è assolutamente tutto falso. Vogliamo sentirlo, si chiama Di Martino a Quarta Repubblica. È totalmente falso, è evidentemente che è un montaggio che ci avrà le sue conseguenze legali, politiche, perché non si può permettere di fare una notizia dove documenti falsi, informazioni falsa, insomma, accusa, falsità di tutto, attacchi falsi, cioè, si vedrà. Certo, Salvini ha preso la palla al balzo e lo voglio far sentire, perché voglio andare poi da Mattia Feltri, come sempre splendido in prima pagina della Stampa. Ma vai, Salvini. L'atteggiamento amichevole di parte dei 5 Stelle nei confronti del regime venezuelano mi ha sempre sconcertato, ma questo anche se fosse gratis. Al momento al governo c'è un mix di CGL e Venezuela. Insomma, Salvini che attacca l'appoggio a Chavez. Mattia Feltri, il buongiorno sulla Stampa. Io non ci credo. Mi sembra improbabile che 10 anni fa, quando il movimento era poco più di un'ipotesi, Gianroberto Casaleggio abbia preso 3,5 milioni dal Venezuela di Chavez e Maduro. E questo però è un bel problema, perché almeno avremo una spiegazione della ragione per cui i grillini difendono certi calibri di caudillos. Lo hanno fatto a Roma, a Bruxelles, li vanno a trovare in Sud America portandosi il libretto con le liturgiche citazioni di Beppe Grillo. 5 anni fa, a un convegno alla Camera, davanti a Di Maio, Di Battista disse che per difendersi dal nazismo euro-tedesco, testuale, bisognava mettere su un'alleanza tipo ALBA, quella anti-americana avviata da Chavez e Fidel Castro. Se li avessero pagati sarebbe comprensibile, invece no, lo dicono gratis. Capite il guaio? Sono proprio convinti. Esattamente come Salvini, che mentre montava la storia, mai dimostrata, dei soldi del Metropol, quelli russi destinati alla Lega, dichiarò Vladimir Putin un grande. Ma precisò, lo dico perché lo penso, non perché mi pagano per dirlo. Sarebbe stato troppo comodo. Ricordate quant'era la cifra? 60 milioni di euro, non poco. Ma ne avremmo tirati su 61 anche tramite patrimoniale, la mia quota l'avrei messa volentieri, facevamo una bella colletta e voilà, ecco 61 milioni per Salvini. Così cominciava a dire che per lui la democrazia liberale era bellissima, che l'euro era un bijou, che Angela Merkel una santa patrona, ma che sono onesti loro, dalla parte di qualsiasi despota, Xi Jinping, Orbán, Kim Jong-un, ma onestamente... Gratis, insomma, scrive Mattia Feltri. Va bene, dai, se su questa vicenda politica... Adesso partiranno gli esperti di documenti dei servizi segreti, partiranno espertoni. Tanto no, in Italia adesso non si capirà nulla. Certo, anche a me sembra assurdo che parta una valigetta, tra l'altro che arrivi a Malpensa, così 3,5 milioni, sì, valigetta diplomatica. Però il console stesso dice è uno... vuol dire disprezzare il lavoro della Digos, no? che non intercetta 3,5 milioni in una valigetta che passa in un aeroporto. Valigetta diplomatica, questa è l'accusa. Però il giornale Abissé dice siamo sicurissimi, abbiamo fatto mesi e mesi di verifiche, tanto adesso non si saprà niente in Italia, ognuno dirà che è vero se gli conviene o non è vero se non gli conviene, e a lei avanti. Intanto io voglio partire dalla Cina, perché in Cina abbiamo sentito questa è una brutta notizia: si riparte, almeno a Pechino. Lorenzo Mastrotto torna con noi, manager che vive a Wuhan, città da cui è partito tutto, ormai lo sapete. Mastrotto, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, c'è preoccupazione per quello che succede a Pechino, la capitale, sentiamo di, insomma, tutto bloccato, un altro mercato che è sotto attenzione. Come si reagisce lì in Cina a questa notizia? Beh sì, c'è parecchia preoccupazione, perché questa volta Pechino, insomma, è la capitale, come ha detto lei, e quindi un mercato piuttosto importante, tra l'altro, in cui si rifornisce quasi tutta la città per la frutta e la verdura. Quindi ieri parlavo col mio cliente piuttosto importante, mi ha detto che ha già bloccato i suoi dipendenti che vengono da quella zona, ha detto state a casa per 2 settimane, lavorate da casa, non venite assolutamente in ufficio. Sono piuttosto preoccupato, sì. Ecco, diciamo che stavolta sicuramente non ci sarà nessuna esitazione, non ci sarà nessun ritardo, perché la storia poi insegna, e questo forse aiuterà a bloccare di più. Certo che c'è a Pechino una grande antropizzazione, milioni di persone, questa è un po' la preoccupazione, ma ci faccia capire che tipo di allarme c'è. Cioè è un'estrema precauzione quella che è stata presa, oppure c'è proprio il terrore che possa ripartire tutto? No, sì, quello che ha detto lei, estrema precauzione è il termine corretto, nel senso che si parla di un centinaio di persone finora che sono state positive, su circa un migliaio di test totali che erano stati fatti inizialmente, adesso naturalmente ne sono stati fatti molto di più, però naturalmente, come ha detto lei, c'è estrema cautela, estrema attenzione adesso a qualsiasi cosa, quindi anche due persone che risultano positive, qui era successo a Wuhan 2 settimane fa, che hanno trovato in uno stabile 6 persone positive, hanno testato tutti nella zona attorno, non hanno trovato più nessuno, e questa mattina è uscita anche la notizia che a Wuhan non ci sono più positivi, neanche gli asintomatici, e le persone che erano vicine a loro sono risultate essere positive. Quindi comunque qualsiasi piccolo numero temono possa essere un nuovo focolaio, e quindi cercano di chiuderlo subito. Dopo, il modo in cui hanno comunicato la notizia, diciamo, hanno dato un po' la colpa all'Europa, dicendo che comunque sì, certo, il virus... hanno incolpato i salmoni, ma è vera questa cosa? Cioè l'importazione di salmoni, cioè capisce, noi tra virgolette, il mondo attenziona e incolpa i cosiddetti wet market, il pangolino, gli animali selvatici macellati, e dalla Cina hanno detto colpa dei salmoni importati dall'Europa, ma è vera questa cosa? Sì, infatti anche qui stanno facendo piuttosto diversa ironia su internet, ci sono diverse barzellette, insomma, vignette che girano, no, su internet. Ce ne dica una, cioè ci dica una battuta sui salmoni europei, cioè cosa dicono? No, fondamentalmente parlano di Norvegia, quindi proprio i norvegesi, poveretti, che penso siano anche quindi, tra i più puliti, sicuri, e, insomma, non ci abita nessuno in Norvegia. Quindi, però ecco, l'idea che gira... L'idea che gira in internet è, ecco, il governo vuole scaricare la colpa anche questa volta. La volta scorsa hanno messo sotto il materasso la polvere, stavolta invece vogliono scaricare la colpa sull'Europa, hanno detto che hanno fatto l'analisi del tipo di virus. Esatto, quindi senta, un'ultima cosa, no, ma... Le chiedo questa, un'ultima cosa importante. Si è parlato molto in Italia del fatto che, almeno in Italia, i nuovi malati clinicamente mostrano dei sintomi meno gravi rispetto a qualche mese fa, dove purtroppo molte persone sono morte nel giro di poche ore. È così anche in Cina? Cioè il virus si manifesta clinicamente in maniera meno grave? Sì, anche qui non ci sono stati fondamentalmente più decessi negli ultimi 2-3 settimane, forse uno solamente, quindi ci sono nuovi malati, ma o sono lievi o comunque le strutture sanitarie sono preparate, sono predisposte. Poi i numeri non sono fuori logica, come era successo a inizio gennaio, cioè febbraio, fine gennaio, a Wuhan, quindi 10 malati vengono gestiti tranquillamente ormai. Dovesse tornare ad essere nell'ordine di migliaia di persone, non so. No, sì, sembra che così dicono come lei, che il virus è diminuito di intensità. Questo, diciamo, pur non essendo medici, né io né lei, è quello che dicono molti medici, no. E lo speriamo sicuramente. Intanto Lorenzo Mastrotto la ringraziamo, lei è sempre molto gentile, ripeto, da Wuhan, la città Cina dove è partito tutto, ma ci raccontava ora dalla Cina quello che è la nuova preoccupazione a Pechino. Venendo invece a cose italiane, adesso introduciamo un argomento, parliamo di scuola, insomma, so che molti studenti sono alle prese con gli esami di maturità, ma anche alcuni studenti, mia figlia con quello di terza media settimana prossima, molti l'hanno già fatto. C'è chi mi chiede se Germanicum sia il nome di un amaro, non lo so, noi abbiamo l'amaro Caporetto lanciato da Leonardo Manera. Germanicum no, è la nuova riforma elettorale, si chiama così perché prendiamo dalla legge elettorale tedesca, gli mettiamo un po' di latinorum, Germanicum, ecco qua che nasce questo. Non chiedetemi dettagli del Germanicum, non li voglio nemmeno approfondire, non mi dite adesso, ah ma il suo compito, sì leggerò anch'io, ma in realtà leggerò alcuni dettagli fondamentali, proporzionale, proporzionale misto, maggioritario, non lo so. Guardate, la riforma elettorale, le leggi elettorali sono materia complicata per costituzionalisti, per docenti, è una cosa che non capisce nessuno, se non 100 persone bene in Italia, probabilmente neanche i politici che le voteranno, però va bene, se volete approfondire il Germanicum ci sarà la seconda ondata a ottobre, parlo di politica, non di coronavirus. Però, cari signori, allora adesso voglio parlare di scuola, lo faccio con un dirigente scolastico, però io li amo chiamare presidi, quindi io lo chiamo preside, siamo al liceo Regina Maria Adelaide di Aosta. Francesco Fazzari, buongiorno e grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti voi, grazie di avermi invitato, grazie a tutti. Allora, perché bisogna fare un pochino chiarezza per una vicenda che è esondata sui siti, anche su qualche giornale, quando due studenti della sua scuola hanno chiesto a un certo punto, attorno a maggio, a dire guardate che noi vorremmo, cioè non ci sentiamo in grado di passare all'anno successivo, uno deve fare la maturità, uno in terza, e vorremmo ripetere l'anno. Come si fa? E qui è nato un grande dibattito. Come si fa a farsi bocciare? Questo sembra impossibile farsi bocciare quest'anno, soprattutto. Come si fa, preside? Certo, come fare ad aiutare due ragazzi che non volevano passare all'anno successivo? Io sono un funzionario dello Stato molto diligente e spero anche un pochettino competente. So che in questo paese c'è la legge sulla trasparenza amministrativa. Quindi ho detto, io faccio di tutto, faccio qualcosa per che chiunque si trovi in una situazione così di difficoltà, quindi ha tante materie insufficienti e preferisce ripetere l'anno, do questa opportunità a tutti i ragazzi e ragazzi che lo desiderano. Quindi ho fatto fare in assoluta buona fede, ho fatto una circolare con annesso un modulo in cui i ragazzi o le famiglie, ovviamente, assolutamente, presentavano al consiglio di classe questa domanda, facevano questa richiesta. Sì. Apriti cielo, perché questo succedeva il venerdì e il lunedì io ricevevo dall'alto, come spesso succede, una telefonata dicendomi che tutti erano in subbuglio e quindi il martedì... Scusi, io ho ritirato, dall'alto chi? Dall'alto, come sempre succede... Dall'alto qui mi informava che sindacati eccetera stavano smobilitando tutti, perché questa non è una competenza degli alunni, ma spetta al consiglio di classe. Peccato che loro la richiesta non l'abbiano nemmeno letta, perché la richiesta delle famiglie e degli alunni era indirizzata al consiglio di classe e il consiglio di classe avrebbe eventualmente bocciato oppure no. Infatti la questione poi lei ha chiarito dicendo non è che lo studente decide di autonomia, mi boccio. Cioè lo studente avanza una richiesta, dice caro consiglio di classe, sappiate che se mi bocciate fate il mio bene. Questo almeno a detta dei due. Ma questi studenti l'hanno fatto loro o l'hanno fatto i rispettivi genitori? Così è... Veniva dagli studenti e dai genitori, quindi da entrambi. Io volevo annunciare, visto che oramai i risultati sono... è vero che ho ritirato la circolare, comunque questo ragazzo di terza ha fatto una bellissima lettera indirizzata al consiglio di classe e noi, io me ne assumo tutte le responsabilità in un paese dove in genere tutti fuggono dalle responsabilità, noi lo abbiamo non ammesso alla classe successiva, che venga pure l'onorevole ministra, che venga chiunque, noi lo abbiamo... Attenzione, l'avete bocciato su sua richiesta, avete... Su sua richiesta. Il ragazzo di quinta non si presenta. Ah, perché, attenzione, mi scusi, questo è un punto importante. Lei dice venga pure il ministro, perché lei ha la sensazione che con questa didattica online si debba procedere al promossi tutti e quindi... No, ma assolutamente, no. Assolutamente. Innanzitutto l'onorevole ministra non avrebbe dovuto svilire la scuola dicendo a marzo che i ragazzi sarebbero stati tutti promossi. Piuttosto dillo il 10 giugno se vuoi, perché svilisci il lavoro dei ragazzi bravi, sì, e dei docenti dice, bravi. Tanto se sono promosso impegna. Non faccio niente. Ecco, perché... ovvio, ma l'avrei fatto anch'io probabilmente, non è che lo è naturale questo. Quindi l'onorevole ministra dovrebbe probabilmente prima conoscere la scuola, conoscere i suoi servi e non servitori, come diciamo, giustamente dice il magistrato Vito Tenore. Noi siamo dei servi. Perché come dire, facciamo un lavoro sempre più complesso, sempre più difficile. Mm-hmm. L'onorevole ministra probabilmente della scuola capisce molto poco, ma me ne assumo io le mie responsabilità. È molto arrabbiato. Sono molto arrabbiato. E poi sta lo strascico di questa vicenda qual è? Che l'onorevole ministra ci ha obbligato ovviamente a fare questo piano didattico per i ragazzi insufficienti, quindi ulteriore burocrazia, ulteriori documenti da fare. Ora, la scuola che dirigo l'abbiamo fatto per i ragazzi insufficienti e gli insegnanti si sono ben guardati da portare i 3 a 6, ma in molte scuole, e glielo dico assumendomi anche qua tutte le responsabilità, molti docenti, pur di non fare il PAI, hanno aumentato dal 3 al 6 il voto. Sì, perché molte scuole poi temono un ricorso giudiziario, si sa. Però ecco, veniamo, lo studente di terza, ripeto, l'anno è stato bocciato. Lo studente di quinta, qualcuno suggerisce, basta che non si presenti all'esame. No, ma lui ha deciso di non presentarsi all'esame. Un ragazzo molto carino, intelligente, ha detto, è venuto lui, l'ho ricevuto, ha detto, preside, io non voglio essere ammesso. Ha detto, come possiamo fare? Si è piccolino, ritirato addirittura qualche giorno prima della fine della scuola, ciò non toglie che abbiamo dovuto, per questa assurda cosa, scrutinarlo, ammetterlo lo stesso, ma lui non si presenta all'esame di Stato. Ma devo dire che se non altro dal punto di vista della maturità questi due ragazzi hanno un'autocoscienza di sé molto, molto alta. Cioè, ma io le dirò un'altra cosa. Quale studente dice, cioè tutti dicono, ma sì, chi se ne frega, tanto mi promuovono. Questi invece sono andati a dire, scusate, bocciatemi, non siamo in grado. Ma io le voglio anche precisare, che è molto importante, che se ci fosse stata questa opportunità, sarebbero state molte le richieste in questo senso, che si sarebbero venute dalle famiglie o dai ragazzi se maggiorenni. Capisce? Cioè in realtà questa intromissione dall'esterno ha proibito a ragazzi, in questo caso di questo liceo, di ripetere un anno che forse per loro sarebbe stato importante. Voglio dire, perché l'avrebbero fatta questa richiesta, ma le dirò di più, che una mamma mi ha scritto da Assisi, una mamma che probabilmente ha visto un articolo sul giornale, mi ha detto che non solamente mi sosteneva, ma mi ha detto, pensi, lei è una maestra, anche una maestra, pensi il danno per quei bambini della scuola primaria, che in genere un anno in più può essere fondamentale per l'acquisizione delle competenze di base. Quelli magari che addirittura sono andati a scuola a 5 anni e 6 mesi, quindi già sono un po' in ritardo, quelli forse sarebbe il caso di dire, guarda, allora recupera e rifai la prima, ecco, per dire. Comunque, preside, io la ringrazio. Questa vicenda vedremo come va a finire, nel senso se ci saranno lamentele istituzionali. Di fatto i due ragazzi alla fine, uno non si presenterà alla quinta all'esame, quindi sarà bocciato, e l'altro avete bocciato. Il consiglio di classe, accogliendo la sua richiesta, ha bocciato. Ripeto, Francesco Fazzari è il preside del liceo Regina Maria Adelaide di Aosta. Che ne pensate, cari ascoltatori? 800 24 00 24, in questa pazzo finale di anno scolastico c'è anche questo. Un attimo di pubblicità, poi sarà con noi Nando Pagnoncelli, oltre ovviamente al nostro grande, forse in video, chi lo sa, Leonardo Manera. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, sempre più schierato politicamente, eh? Bravo, bravo. Io sono completamente contro i 5 stars, però penso che la faccenda della valigetta sia una bufala. From the stars. Ma dai Milan, come si fa a pensare che i venezuelani hanno dato 3 milioni e mezzo a Casaleggio? I venezuelani, cazzo, non c'hanno più neanche gli occhi per piangere. Vabbè, vabbè, anche a me puzza un po' di... Però, insomma, Leonardo Manera, cosa c'è? Cosa stai combinando? Buongiorno. Cosa stai facendo? Stai scappando? Mi sto dedicando al mio hobby. Il mio hobby. Cioè? Cioè? Schiacciare bottiglie di plastica. Sto scaricando tensione anche. Va bene. Il problema quante è che ne devo hai? Bere scusa. Tutto. Una adesso diranno che sei un grande produttore di plastica. Allora, adesso verrai attaccato con questo. È il mio hobby. Il problema è che devo bere. Ho detto il mio hobby. No, è il mio hobby. Il problema è che devo bere tutto quello che c'è dentro. E adesso è tutta la notte che bevo acqua. E vado in bagno anche. Va bene. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sì, sì, sì. Buongiorno a tutti. Adesso insomma hai sentito i messaggi, noi vogliamo salutare un ospite che ci aiuterà a capire qualcosa di politica mentre Manera schiaccia la plastica, va bene? Il presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli, buongiorno Pagnoncelli. Buongiorno a voi gli ascoltatori. Lo perdoni, Manera, questo hobby deve scaricare un po' di nervosismo, evidentemente. Allora, Pagnoncelli, le faccio sentire Conte, perché il grande dibattito, lei ha fatto anche un sondaggio, è uscito sul Corriere della Sera, Conte, cosa farà Conte, Premier Conte, partito di Conte, lista Conte. Conte ieri ha detto, torno a fare l'avvocato, sono contento così, vai Alpino. Ho una occupazione, lo dico quindi a tutti quanti, coloro che ovviamente elaborano sondaggi inserendo la figura di Conte tra le domande che vengono, diciamo, con cui tutti i cittadini vengono chiamati a rispondere, lo dico ai compagni di viaggio. In questo momento noi stiamo facendo un'esperienza bellissima. Questo impegno è già così sfidante, mi assorbe completamente. Ho un'occupazione, domani se terminerò questo servizio e ritorno a fare quello che facevo sarò contentissimo. Quindi non c'è un problema. Questo è il tema. Insomma, si rivolge ai sondaggisti, quindi anche a lei, no? Che succede? Come prendere questa dichiarazione? Diciamo che nel nostro lavoro molto spesso facciamo delle analisi sulla base delle ipotesi di cui si sta parlando. Certo. Non è affatto detto che ovviamente queste rilevazioni poi vengano verificate e si confermino poi nel momento del voto, l'ho specificato a chiare lettere a chiusura dell'articolo, per tutta una serie di motivi, perché evidentemente un conto è immaginare oggi una situazione di questo tipo e un conto è al termine della campagna elettorale. Non escludo il fatto che ci possa essere, come dire, anche il venir meno di questo ruolo e di questa figura istituzionale da parte del Presidente del Consiglio, il fatto di scendere in campo in ogni caso potrebbe alienare una parte dei suoi consensi. D'altra parte noi siamo in una fase nella quale c'è una straordinaria mobilità elettorale, una straordinaria volatilità del voto, e al di là dei sondaggi vale la pena riflettere un secondo su quello che è successo tra 2018 e 2019, cioè tra le politiche e le europee. Cioè chi aveva trionfato il Movimento 5 Stelle con quasi 11 milioni di voti, 10 milioni e 800 mila, ne ha persi 6 milioni e 200 mila. La Lega passa da 5 milioni e 700 mila a 9 milioni e 200 mila voti, quindi ne aumenta quasi 3 milioni. Allora siamo in presenza di una fase nella quale i cittadini hanno una più limitata fedeltà di voto. Allora vengono prese in considerazione queste ipotesi, e l'ipotesi di Conte a capo di un suo partito oppure a capo del Movimento 5 Stelle è risultata abbastanza eclatante. Ecco. Questo non aiuta i sondaggisti, perché questa estrema volatilità, ma che è spiegata da che cosa? Cioè lei si è dato una risposta, perché questo periodo storico negli ultimi anni c'è questa estrema volatilità? Sarebbe un discorso molto lungo, vado proprio telegraficamente. Allora, innanzitutto è cambiato significativamente il rapporto con la politica, cioè se noi pensiamo alla politica fino alla fine degli anni Ottanta, basata sulle grandi subculture, sui partiti che in qualche modo avevano un livello di fedeltà elevato, e scordiamocelo, quello era un rapporto con la politica che presupponeva un legame forte, identitario. Oggi la politica è un frammento dell'identità. Io dico sempre che ai miei studenti in università, quando ho chiesto ma quando si vota per l'elezione del sindaco di Milano, mancavano 3 settimane, nessuno è stato in grado di rispondere. Cioè la politica è un elemento, no? Quindi c'è meno appartenenza, c'è più delusione molta più delusione. Non dimentichiamoci che nel nostro paese dal 94 in poi abbiamo visto tutti i governi che si sono succeduti alla guida del paese in qualche modo essere sconfitti alle elezioni successive, quindi abbiamo sperimentato un'alternanza, centrodestra, centrosinistra, i tecnici, i giovani, i rottamatori, i nuovi, l'uno vale uno, tutto. La gente poi alla fine è delusa e decide di cambiare. Sì. Cioè ci si innamora e ci si disinnamora velocemente. Basta però vedere solo la parabola delusione di fiducia nei leader e nei presidenti del Consiglio. Eh sì. Tutti con luna di miele iniziale e poi calo. Ma è sempre motivata questa delusione o è una delusione a questo punto quasi a prescindere? Cioè non si è mai soddisfatti perché poi alla fine la situazione, chiunque governi non si può cambiare, quindi si sa già che bene o male governerà l'opposto successivamente. No, in realtà è un po' figlia di qualche cosa che è venuto un po' meno durante l'emergenza sanitaria, e c'è una sorta di asimmetria tra la dimensione individuale e il senso di appartenenza più larga. Cioè di fatto il rapporto con la politica è un rapporto utilitaristico, cioè la politica deve rispondere ai miei bisogni, ai miei, sì, non a quelli della società, del paese, del gruppo a cui appartengo e così via. Allora se si accentua la dimensione individuale è chiaro che il livello di delusione aumenta, perché non ci saranno mai decisioni che potranno soddisfarmi a pieno. Sì, certo, trovo, non ho lavoro, quello lì promette il lavoro, se dopo 4 anni non ho lavoro, comunque sono in difficoltà, non lo voto più. Ma non è che la politica in teoria non dovrebbe ragionare così, cioè non è che voto quello che mi fa un favore personale. Il problema, Milan, è che la politica sia adattata e quindi in qualche modo rincorre l'opinione pubblica, anziché guidarla, anziché definire obiettivi di medio-lungo termine. La politica si è adattata inseguendo attraverso i sondaggi quelle che sono le aspettative dei cittadini, salvo poi trovare i cittadini che girano le spalle. Ma lei sa quante persone ci chiedono, dei leader politici nazionali e locali ci chiedono, ma che cosa vogliono i cittadini? Ma che cosa vuoi tu, mi verrebbe da dire? Cioè, in realtà, il leader politico deve È lui che dovrebbe avere una visione, lui o lei, è chiaro. Quindi chiaro. Si invertono i rapporti e è una sorta di cortocircuito della democrazia. Secondo lei questa vicenda, poi vera, presunta, vedremo dei soldi dal Venezuela, potrà incidere? Ci sono già dei sondaggi o è troppo presto per capire? No, è un po' presto e devo dire che in realtà è uno dei tanti elementi che si inserisce in un dibattito politico abbastanza confuso. Anche questo allontana ulteriormente i cittadini dalla politica e quindi complica ulteriormente la situazione. Perché non è affatto detto che questo elemento possa spostare significativamente voti, perché c'è l'incredulità dei tifosi e c'è invece chi dice avete visto e non sono esattamente come gli altri, e questo radicalizza le posizioni, ma non sposta significativamente voti. Beh, che siamo un paese di tifosi, questo è chiaro nella politica. Però è venuto un po' meno questo aspetto durante l'emergenza sanitaria, e credo che questo sia l'elemento più interessante, questo clima un po' più di concordia e di coesione. E l'idea dell'interdipendenza, l'idea che la mia salute dipende dalla salute degli altri e viceversa. Ecco, questo bisogna capire se verrà archiviato con la crisi economica o se in qualche modo potrà permanere e aiutare il paese ad affrontare la crisi economica in termini un pochino più, non voglio dire solidali perché è un termine molto strumentalizzato, però un po' più coeso, ecco. Questo atteggiamento di inseguire i desideri dei cittadini è figlio della fine delle ideologie, immagino. Sicuramente sì, c'è una politica che non è più basata su valori, ma è basata sull'idea che io ti risolvo il problema. E allora questo illude i cittadini e crea il meccanismo di cui parlavo prima. In una precedente occasione in cui mi avete ospitato, avevamo parlato della distanza tra la percezione e la realtà dei fenomeni. Ricordo. Ecco, allora, inseguire l'opinione pubblica vuol dire molto spesso inseguire i cittadini che hanno una lettura distorta del paese e hanno competenze limitate. Allora, in una situazione di questo tipo, capite bene che l'idea che la politica insegua il sondaggio imprigiona il paese in un presentismo permanente, perché il qui e ora non è definire degli obiettivi, perché per ragioni di consenso, se io metto in atto delle riforme che per loro natura sono impopolari perché ci obbligano a rivedere il nostro stile di vita, ebbene il dividendo elettorale in termini di consenso lo vedrò tra 10 anni, ma tra 10 anni io non sarò più nemmeno in politica, alcuni dicono, e quindi si lavora sul qui e ora. Tra l'altro il qui e ora cozza un po' con quello che stiamo a cui stiamo assistendo, cioè la vicenda degli stati generali, per esempio, che dovrebbe essere l'impostazione di un'agenda programmatica per l'economia e lo sviluppo del paese per i prossimi 30 anni. Però ci sta dicendo che, ma non lo dico come critica, ma se seguo il suo ragionamento vorrà dire che sarà l'ennesimo sfogo di chiacchiere, ma poi la politica si concentra su altri tipi di risposte, ecco. Questo è il vero rischio in questo momento. Faccio solo un esempio: se si facesse una politica che favorisca la ripresa demografica del nostro paese, e quindi vuol dire occupazione giovanile, politiche abitative, politiche conciliative e così via, no? I risultati li vedremo tra 10-15 anni. Quindi a chi conviene avviare questo tipo di riforma? A chi ha il senso dello Stato e non il senso del proprio partito? E questo è il limite non grosso. A chi pensa vincerà le regionali a settembre, che sono dietro l'angolo, ma a chi pensa domani. Pagnoncelli, noi la ringraziamo perché insomma è sempre così lucido nel darci degli spunti su cui ragionare, al di là dei sondaggi, i numeri che poi uno trova ovunque, che Pagnoncelli con la Ipsos pubblica, ma insomma poi dopo le analisi approfondite fanno capire anche un po' di più. La ringraziamo, dobbiamo andare alle informazioni sul traffico. Grazie Pagnoncelli, alla prossima. Traffico. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free. Dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni, aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. 1, nessuno, 100 Milan. La polemica di quel preside è solo una polemica politica, non culturale. Niente, anche Mr. Bean diceva che non tornava più in politica. Un'occupazione. Vabbè, c'è stato sul finale qualche inghippo. Allora, c'è un Leonardo Manera nostalgico che voleva riascoltare la pubblicità dei gelati Bellugi. Ti ricordi? Perché ti sei venuto? Ma così, mi è venuto in mente... Me l'hanno citata l'altro giorno, qualcuno me l'ha citata, allora mi è tornata in mente. Ve la ricordate? Eccola qua, i gelati Bellugi. Ogni volta che mangi il gelato troppo velocemente, il freddo ti dà quella fastidiosa sensazione di dolore alla testa? Quel dolore alle tempie tipico di chi inghiotte troppo gelato in una volta? Da oggi questo non succederà più, grazie ai gelati tiepidi Bellugi, serviti in tazza con la cannuccia. I gelati tiepidi Bellugi ti lasceranno solo una bella sensazione di tiepido in bocca. Potrai mangiare il gelato alla velocità che più desideri con i gelati tiepidi Bellugi. Bellugi, il gusto tiepido della vita. Bellugi Benito, col suo gelato ti lecchi il dito. Quando ci chiamò Sion Benito sostenendo di essere il titolare della Bellugi Gelati, che non esiste invece. Ricordo. Vabbè, così, attimo nostalgia. Vai Leo, vai. Allora, questi a scuola sono i giorni dell'esame di maturità. L'esame di maturità, quello che appunto dovrebbe portarti nell'età adulta, quello dopo il quale una persona dovrebbe considerarsi matura, o più semplicemente quell'esame che poi ti permette di fare alcuni mesi di vacanza completamente spensierato, pensando a come potrebbe essere la vita futura. Quello che ti fa mettere un punto in qualche modo alla tua vita di ragazzo, alle prime cotte, alle prime sbronze, ai brufoli, agli amori che quando finiscono ti sembra di sprofondare giù per sempre senza possibilità di rialzarti, alle interrogazioni a sorpresa, alle occupazioni studentesche, ai litigi con mamma e papà per l'ora in cui rientrare da qualche festa, alle mance che ti danno i nonni e le nonne di nascosto senza farlo sapere ai genitori. L'esame di maturità è la fine di un ciclo che comincia quando sei ancora ragazzetto e sei ancora attirato da una qualsiasi palla che rotola e tutti i maschi ci si buttano intorno. quando si è dato l'esame di maturità, invece, una cravatta non sembra più stonata sul viso di un ragazzo, così come un tailleur su quello di una ragazza. Eh già, bello se fosse così. Non è per disilludere o deludere i ragazzi che stanno per darlo, ma l'esame di maturità è il primo di una lunghissima serie di esami di maturità. Che comincia con l'esame di maturità e poi non si sa quanto andrà avanti. Io di esami di maturità ne ho dati molti nella vita, ma superati, beh, quello non lo so. Il problema è che l'esame di maturità vero è più facile, perché lì c'è una commissione che ti dice se sei andato bene o male. Invece in tutti gli altri esami di maturità della vita, no, lì è più difficile. E anch'io dicevo di esami di maturità ne ho dati tanti. Per esempio quando ho scelto di fare spettacoli invece di continuare a studiare con mia madre che non mi avrebbe promosso per quella scelta. E la prima volta che mi ha visto in televisione poi mi ha detto «Leo, ma se fai quelle cose è meglio che torni a studiare». È stato esame di maturità quando ho deciso a 20 anni di andare a vivere da solo in una città nuova, qui a Milano, provando una solitudine così grande che sentire i rumori dai vicini di casa mi dava conforto. È stato esame di maturità la mia prima convivenza, quando devi imparare a condividere gli spazi di casa e ti rendi conto che sì, è anche bello convivere, ma quando si litiga e uno dei due dice vado a casa, se casa tua è quella lì, diventa un po' difficile. È un grande esame di maturità quando si fa il test di gravidanza e si verifica che è in arrivo un figlio che per i primi anni di vita non ti fa dormire perché piange e vorresti che per un po' stesse fuori casa. E poi dopo i 14 anni non ti fa dormire perché invece è sempre fuori casa. E allora preferiresti com'era quando non ti faceva dormire perché piangeva nella cameretta. È esame di maturità quando fai un mutuo che durerà sicuramente più del matrimonio. Ed è esame di maturità quando dopo la separazione incontri una persona nuova, ognuno col proprio bagaglio di paure, di ansie, di difese, di aspettative, di problemi, e bisogna cercare di essere adulti ma con la freschezza dei 20 anni. Ci vorrebbe un lifting al cervello. Sono tutti esami di maturità e purtroppo, per fortuna, quello di quinta liceo è, a mio modesto parere e a mia modesta esperienza, è ancora il più semplice di tutti. Bravo Leo, bravo, e in bocca al lupo ovviamente a tutti quelli che fanno l'esame più semplice, cioè quello di maturità, che si stanno mandando al diavolo pensando al fatto che tu l'hai definito il più semplice della loro vita. È vero. In questo momento. Però sappiate, cari ragazzi e ragazzi, che effettivamente passerete altri esami di maturità nella vostra vita. È la campanella che vuol dire che c'è l'esame di maturità, ma anche che dobbiamo andare al giornale radio. Una delle due, forse tutte e due. Allora dai, giornale radio, poi seconda ora di Uno Nessuno 100.000, state qui. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Uno Nessuno 100.000. Secondo quel partito fa la fine di Monti, quindi non glielo auguro. Per quanto riguarda tornare al lavoro, ne ho sentiti già troppi. Renzi che doveva dimettersi, questi sono attaccati alle poltrone, hanno l'attac incollato alla schiena della poltrona, non se ne vanno più. Milan. Manera non è solo un comico, è anche un filosofo, eppure bravo. Manera mi ha fatto riflettere che di esami di maturità ne ho fatti tanti, senza saperlo. Bravo Leo, sei proprio bravo, ma bravo bravo. A tutte e due. Beh, io me lo prendo gratuitamente questo bacio, non ho fatto nulla, cioè, ecco. Bravo Manera, però prendo un bacio anch'io. Sei un parassita. Pensavo un paraculo, come ieri ci ha detto Farinetti, parassita. Quando ci ha detto che i politici sono un po' paraculi. Un po' paraculo sai e parassita. Qualche anno fa girava a Milano uno spettacolo teatrale che si chiamava Il Parassita, che era sempre in tarda serata e utilizzava le scenografie degli spettacoli che andavano in prima serata. Quindi lui non... Ma meraviglioso! Cioè, proprio nasceva così, nasceva sto, sì. Però poi il contenuto sarà stato anche. Ci sarà stato un contenuto di quello spettacolo, no? Sì, certo, il contenuto, e c'era qualche piccola variazione ogni volta inseribile rispetto alla scenografia che variava. Proprio per spermare sulla scena, sì, il parassita. È la stessa cosa che fai tu. È un'idea geniale. Utilizzi complimenti a me per prenderti dei gran baci, quindi anche tu in questo senso sei un po' un parassita. Il parassita, sì, sì, sì. Senti, mi chiedono, si può andare in onda dalle 9.30 alle 11, così in maniera che arriva sempre mezz'ora dopo, arriva alle 10, e che l'ascoltatore si sveglia alle 10... Insomma, dobbiamo adeguare anche il palinsesto in base è un po' come la politica. Ecco, noi per accontentare questo ascoltatore faremo così, faremo il palinsesto ad personam. Poi quando uno si lamenterà più forte dicendo se possiamo tornare alle 9, torniamo alle 9. Facciamo un po' come ci ha spiegato Pagnoncelli, i politici si adeguano alle richieste di uno e dell'altro e così non c'è una visione e si naviga a vista. Però ricordiamo allora, anche all'ascoltatore che c'è il podcast e quindi può sentire quello che vuole, no? Anche alle 10 di mattina. L'ascoltatore, se poi ha anche voglia di vedere delle facce, può collegarsi su Facebook e guardarci in diretta video. Ah no, può guardare me in diretta video, scusate. Adesso oggi devo io sono devo in diretta telefonare. Video con sì. La mia camicina da casa, mentre Leonardo Manera oggi deve telefonare a Sandro Fortunata. Sì, Sandro Fortunato oggi lo chiamo, sì. Fortunati, ricordiamo Sandro Fortunati. Che gag stucchevole, sai quelle gag veramente stucchevoli che sì, si portano avanti senza nessun consenso degli ascoltatori. Ma tu di Sandro Fortunati e basta, io tutto per la precisione Massimo Alfredo Giuseppe Maria ti correggerò tutte le volte, no? Tutto per la precisione. Sì. Comunque oggi lo chiamo Sandro Fortunato. Stefania da Monza Brianza, cioè MB è Monza Brianza, perché MB. C'è sempre Laura Fagen che mi fa i quiz. MB, Stefania da MB, Monza Brianza, giusto Stefania? Esatto, MB, esatto, MB. MB una volta era Milano, è diventato MB, Monza certo, Brianza. Certo. Anch'io voglio dare un bacio a Leonardo Manera, vorrei un marito come lui, un uomo come lui nella mia vita. Grazie, a me no, io vorrei fare un po' il parassita, a me no. Mi fa ridere la vabbè, niente, va bene. Non riesco a fare il parassita. Vai Stefano. Ok, allora volevo fare un intervento a proposito dell'anno scolastico ripetuto. L'ho vissuto io con mia figlia in quarta elementare, in un momento un po' particolare della mia vita e di conseguenza della vita di mia figlia, perché si è ripercossa un po', anche se era una ragazza studiosa eccetera. Però diciamo che l'anno scolastico non è andato come doveva andare e nonostante l'insegnante volesse comunque promuoverla, diciamo per il merito, per quello che ci ha messo, io come mamma non me la sono sentita di farla promuovere. Parlando con l'insegnante abbiamo deciso di bocciarla e farla rifare l'anno. Accidenti. Che però cos'è quarta elementare che però sì, non è stata una scelta facile, perché dopo sensi di colpa anche da parte mia per la bambina, perché comunque mia figlia quarta elementare capisce, no? Perché mamma, perché questa cosa, non sono io in grado di fare determinate cose, non ho fatto quello che avrei dovuto fare, invece no, è stata proprio una conseguenza di un momento di vita, un po' della famiglia, diciamo così, per cui si è ripercosso nella bambina. E comunque adesso mia figlia ormai 32 anni, un bellissimo lavoro, laureata, ha recuperato tutto ciò che doveva recuperare e guarda, tornando indietro lo rifarei, nonostante la sofferenza di quel momento. Ricordiamo che sono stati, si parla della notizia di prima, di due studenti, neanche i genitori, forse spalleggiati dai genitori, ma proprio due studenti di Aosta, terza liceo e quinta, che hanno chiesto anche loro di poter ripetere l'anno. Quindi io almeno elogio, ripeto, il grado di autoconsapevolezza che hanno questi ragazzi. Io concordo, perché un conto sono i genitori, ma che loro supportino questa scelta vuol dire che sono molto maturi. Consapevoli. Va bene, grazie. E tra l'altro diciamo anche che i professori hanno dato il nulla osta, essendo lì ad Aosta. Sì. Ah, detto. No, Stefania, ma non deve ridere, non è obbligata, non è obbligata. Comunque sì, ha dato il nulla osta, va bene. Okay, va bene. Grazie. Okay, grazie Stefania. Mille. Se non ci fosse maniera dovremmo inventarlo. Adesso vediamo se si inventa una cosa su Sondrio. Cinzia da Sondrio. Ecco, Laura Faggin si è offesa, ma ha scritto Sondrio, che io so benissimo essere città. S-O. Molto come bella Sondrio. Buongiorno. Bella Sondrio. Certo, vai Cinzia, eccoci. Ciao, no, io volevo esprimere la mia solidarietà al preside da Aosta, del liceo aostano, perché non ho delle, io ho tre figlie, non sono in età da liceo, da scuole superiori, sono due alle elementari e una in terza media. Però secondo me, pur non conoscendo nel dettaglio la vicenda, l'atteggiamento del preside denota quell'attenzione all'alunno, al singolo, alla singola esperienza, che è una cosa che manca. Io penso che anche solo nella mia piccola esperienza vedere un esame di terza media che è trattato così come se fosse proprio un nulla, cioè svolto ancora online quando credo che ci potrebbero essere state le condizioni sia tecniche che di tempo che di risorse per gestire un colloquio frontale di un singolo con dei professori, anche per la chiusura di un ciclo. Rientra un po' in quel messaggio che si dà di poca importanza alla scuola in un paese in cui, consentitemi la polemica, sembra che si discuta di più della, o più concretamente comunque, di come deve ricominciare il campionato di calcio che non di come debba ricominciare la scuola a settembre. Sì, si è dibattuto, sinceramente... si è dibattuto molto il campionato. Secondo me, Cinzia, io che sono appassionato di calcio, ma discutiamo anche molto di scuola, credo che si può riaprire la scuola e si può riaprire il campionato di calcio, e sono cose separate e si possono fare entrambe. Insomma. C'è ancora Cinzia? Cinzia? Cinzia, visto che è di Sondrio, io sono stato recentemente a Sondrio, volevo chiedere perché in piazza Garibaldi è stato messo quel terribile manto di erba finta sintetica, che è veramente una cosa brutta da vedere. Se lei ha qualche spiegazione. Calcetto, non lo so. Ma Cinzia è l'assessore di Sondrio. No. A lei piace tantissimo magari quel manto erboso. Io ho la casa a Tresivio, ma non, è da un po' che sono, non passo per Sondrio, non lo sapevo. Wow, che meraviglia, Tresivio bellissimo. È bellissimo. No, però io, se posso concludere, darei la maturità a quei ragazzi che si sono autodeterminati dicendo non sono in grado, chiedo di essere fermato un anno, rispetto a quei calciatori che hanno detto no, non mi va bene giocare alle 5 di pomeriggio. Allora, però, diciamocela. Però cosa facciamo che, trasmettono, il modello che trasmettono non è un modello bello. Sì, ma certo, però il calciatore non è che possiamo togliere la maturità, molto spesso non ce l'hanno neanche, quindi insomma, così seguo Cinzia e Sondrio in questo. Ma è vero. Ci sono molti calciatori anche laureati, sì, poi, per la verità. Ma infatti. Chiellini. Molti. Balotelli. Adesso, sì, Balotelli. Sì. Ma ho un piccolo sospetto su Balotelli. Chiellini certamente è laureato, su Balotelli... Va bene, ringraziamo Cinzia da Sondrio, andiamo al traffico, poi avremo ospite il papà, forse ricordate la vicenda, sono passati 3 anni e lui e la famiglia tra l'altro dicono è bene ricordarlo perché sembra invece che lo Stato si sia dimenticato, il papà di Marco Gottardi, Marco con la fidanzata Gloria morì 3 anni fa nel terribile incendio alla Grenfell Tower a Londra. Ci sono state 72 vittime. Sarà ospite da noi il padre per dirci alcune cose importanti tra poco. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe. Un unico partner, 1000 risorse. 1, nessuno, 100 Milan. Scusa Milan, ma una valigetta diplomatica riesce a contenere 3 milioni e mezzo di euro? Certo che i complimenti fatti da anziane signore e tutte donne, tutte al mattino, sono efficaci, sicuramente fanno molto piacere. Ma perché anziane? Non lo sappiamo dall'età. Sai che non l'ho capito questo messaggio? Ma sì, non lo so. Ma era invidiosa la signora, poi non lo so, anziane signore, come giudicare? Ma dalla voce, però, insomma, boh, non lo so, signora. Va bene, allora, visto che abbiamo parlato di scuola, tra l'altro, fammi citare che stasera, si dovrebbe dire stanotte, però è sera, dalle 21 alle 24 su Radio 24, torna notte prima degli esami. Sai che ogni anno Federico Taddia, per rivivere la maturità, che ha fatto anche lui, fa questo speciale su Radio 24, ci sarà anche sì, la ministra dell'istruzione Azzolina, ma ci saranno, sì, ci saranno, partecipano sempre personaggi straordinari, c'è Guccini, c'è il maestrone che ha compiuto 80 anni domenica. So che è sempre la stessa puntata, poi che viene rimandata di anno in anno, è una replica. Federico Taddia è pigro come persona, molto pigro. Sì, ma infatti vedi, c'è Guccini, c'è Saviano, c'era anche l'anno scorso, Cristiana Capotondi, secondo me c'era 2 anni fa Cristiana Capotondi, Tommaso Paradiso, che parlerà ancora del fatto, sì, Lodovica Comello, secondo me sì. Ma guarda, già Federico Taddia basta vederlo in viso per capire che è un uomo pigro e quindi ricicla sempre il già fatto. No dai, dalle 21 alle 24 stasera, notte prima degli esami, per ricordare la maturità e per prepararsi alla maturità ovviamente con Federico Taddia. Allora, adesso io lo ringrazio per essere qui e lo saluto come sempre quando affrontiamo queste notizie, sempre con massimo rispetto, perché noi qua si ride, si scherza, si alleggerisce, ma in questo caso non c'è nulla da alleggerire, perché voglio salutare Giannino Gottardi, che è il papà di Marco. Buongiorno signor Giannino, grazie di essere qui. Buongiorno a lei e ai ascoltatori. Allora, ricordiamo che Marco insieme alla fidanzata Gloria morì nell'incendio della Grenfell Tower il 14 giugno 2017, 3 anni fa. Io ricordo anche che noi raccontammo che da quell'esperienza ne è nato un libro che è una fiaba, Il Cavaliere e la Principessa, in cui attraverso una fiaba si racconta in realtà questa purtroppo tragica storia. È nata anche una fondazione. La notizia che è rimbalzata sui giornali e che ci ha fatto storcere il naso è questa cifra dai 10 ai 60 mila sterline, cioè circa 67 mila euro, che vi sarebbero stati offerti a voi come a tutti i familiari, ma per fare esattamente cosa? Rinunciare al processo, signor Gottardi? No, allora, intanto premetto che noi come famiglia Gottardi ci dissociamo da queste informazioni e dichiarazioni che sono state fatte. Io ne ho presa visione da un giornale locale venerdì mattina, ho verificato subito tramite l'avvocato Pinelli che ci segue in Italia, l'avvocato Cheso a Londra e lo studio Russell Cook di Londra, nonché i 2 studi in Pennsylvania. E non c'è assolutamente nessun riscontro, c'è stato nemmeno con i contatti con giornalisti del Sun che mi hanno chiamato dicendo: noi non troviamo assolutamente nulla, ci aiuti a capire. Quindi non è vero che non c'è nessuna offerta di risarcimento di questa cifra per evitare il processo? Nella maniera più assoluta. Chissà com'è nata questa notizia. Ma io me la sono poi costruita la cosa, però preferisco tenerla per me, perché andrebbe chiesta a chi, questa domanda andrebbe fatta a chi ha fatto uscire queste notizie. E comunque non trovano assolutamente nessun riscontro. No, perché sa, subito si era giustamente alzato un coro sdegnato a dire: ma come si fa a quantificare una vita in 67 mila euro? A parte che non c'è nessuna quantificazione, ma tantomeno 67 mila euro. Guarda, io sono andato a fondo e sostanzialmente in Gran Bretagna c'è un importo dovuto quando ci sono lesioni o vittime a persone per il danno psicologico causato a, diciamo, i familiari, c'è un importo, un range da 10.000 a 69.000 euro. Ecco, l'unica cosa che ho notato è, però non c'è assolutamente nulla, anche perché qualora ci fosse stata una qualsiasi proposta di questo tipo, ha poco senso parlare di questi soldi. Perché? Perché si tratterebbe di una proposta di una società imputata. Noi consideriamo che ad oggi, pur non essendo ancora stata completata la lista degli imputati da portare a processo, perché è appena iniziata la seconda fase delle indagini, delle inquiry a Londra, parliamo sicuramente di decine, se non oltre, di entità coinvolte, per cui sarebbe comunque un valore fasullo, completamente errato, sì, che ha creato una confusione pazzesca. Io ho ricevuto telefonate da venerdì all'ora di pranzo fino a questa mattina. Però insomma, questa cosa l'abbiamo chiarita ed è bene che lei l'abbia chiarita a nome della famiglia. So che c'è un'amarezza però di fondo che voi vi portate dietro, oltre alla tragedia di aver perso un figlio, e cioè la sensazione di un abbandono totale da parte delle istituzioni. Ma cosa dovrebbero fare le istituzioni italiane, secondo lei? Sì. Allora, io quando mi sono espresso in questi termini parlo sempre di governo centrale, perché noi a livello locale, la nostra amministrazione comunale, il sindaco, e a livello della regione Veneto abbiamo avuto supporto, solidarietà ed altro. C'è una completa assenza del governo italiano. A mio avviso la Farnesina, competente in materia, una qualche pressione sul governo inglese la doveva fare, in virtù delle indagini, ad esempio, che sono molto lunghe, sono sicuramente molto delicate, sono coinvolte delle multinazionali, i rischi che ci possono essere, chiamiamoli tra virgolette insabbiamenti, parliamoci chiaro, ci possono essere, perché è una controparte molto forte, ma quello che ci ha amareggiato molto, ma molto di più, è che non c'è stata nessuna reazione, nemmeno dopo le dichiarazioni del ministro britannico per i rapporti col Parlamento, quando dichiarò a un talk televisivo che le 72 vittime sono vittime delle loro scelte, perché dovevano disobbedire ai vigili del fuoco. Questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Il nostro avvocato Pinelli ha scritto una lettera indirizzata al ministro Di Maio. Ci ha risposto dopo un mese un funzionario il cui contenuto è qualcosa di offensivo, nel senso che se non ci avessero risposto sarebbe stato meglio. Ecco, questa è una cosa molto grave. Scusi, ci può dire, tanto non credo che si svela niente in segreto, il contenuto di questo... Uno anche intraprendere un'azione verso il governo britannico sarebbe una cosa molto lunga. Due, ma tanto quel ministro non ha parlato solo di Marco e Gloria, ha parlato di tutte le 72 vittime. È una cosa inconcepibile, non ci voglio neanche... Ecco, allora, poi mi vedo... Allora, tra l'altro, chiariamo una cosa, sono passati 3 anni, parliamo di 3 governi, per cui non è questione di colori, ok? Ma, però la frittata è sempre la stessa. Cioè, lei teme che di fronte a un governo britannico che dice così si prepara il terreno a dire non avevamo nessun tipo di responsabilità, sono stati errori personali di coloro che sono morti, incredibile, cioè disattendere gli ordini, uno che deve seguire se non gli ordini dei vigili del fuoco, pensa che siano le persone più preparate in quel momento, i vigili del fuoco. Se lei è stato attento alle dichiarazioni che ha fatto Boris Johnson in questi giorni, ieri, ha detto, ieri che c'era, domenica c'era l'anniversario, il 3° anniversario, sì, è stato riportato un virgolettato, poi è chiaro, uno può dire è stato estrapolato, questo non lo so. Ecco, io ho letto il virgolettato che se è una tragedia, faremo il possibile perché ciò non accada. Ma devi fare anche il possibile per mettere in galera i colpevoli, non solo fare il possibile perché ciò non accada. Anche noi abbiamo creato la fondazione affinché queste cose non accadano. Però se non dai l'esempio di colpire il colpevole, ritorniamo sempre punto a capo. Senta, le vittime, a parte i 2 italiani, suo figlio e la fidanzata, di che nazionalità erano? Un po' di varie nazionalità. Allora, la provenienza è multietnica, perché a Londra è chiaramente una città multietnica, però presumo fossero quasi tutti inglesi come cittadinanza, ma la provenienza era un po' di tutto il mondo, veramente molto varia, per quel poco che ho visto dopo, perché io e mia moglie siamo stati una volta lì a trovarli un mese prima, anche meno, 20 giorni prima che accadesse la tragedia, e non è che ci siamo resi conto, o chi abitava, chi non abitava, la torre era bella, l'appartamento bellissimo, eravamo contenti per loro, anche se probabilmente era una sistemazione provvisoria, perché la signora che gliel'aveva dato in uso gli aveva dato in attesa che loro trovassero un'alternativa, però in cuor loro speravano anche di rimanerci, era un bellissimo posto. Era bello. Sì. Guardi, signor Gottardi, noi la ringraziamo. Insomma, è chiaro che ieri abbiamo parlato del caso Regeni, vicenda totalmente diversa. Addirittura ci sono, come dire, in ballo questioni di Stato tra Italia e Egitto. Però fa male sentire genitori di diverso tipo, diverse storie, dire ci sentiamo abbandonati dallo Stato italiano. Noi questo registriamo e questo veicoliamo attraverso la vostra voce. Intanto la ringraziamo, ripeto, papà di Marco Gottardi. Ci vuol dire la fondazione, il nome della fondazione, sì, come trovarla, chi fosse interessato? La fondazione si chiama Grenfell Love Marco e Gloria Onlus. Grenfell Love deriva dal nome della torre, da Grenfell Tower, certo, luogo della tragedia, a Grenfell Love, luogo dell'amore, e anche il logo rappresenta con due elementi base dell'architettura, con due squadre, un compasso, un angelo al di sotto che rappresenta la bontà, con un cuore rosso che rappresenta l'amore dei ragazzi, e una piccola torre che rappresenta la tragedia. Il significato che vogliamo dare è che il bene vince sul male, si trova in rete, basta digitare Grenfell Love, sì, tutto attaccato con due L. Sì, e sostanzialmente, sì, oltre che a sensibilizzare le coscienze sulla sicurezza e ricordare i due ragazzi, raccogliamo fondi per devolverli alle scuole e a studenti meritevoli, appunto per aiutare i giovani nello studio. La ringraziamo molto, signor Giannino Gottardi, e andiamo a sentire la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Milan, tu hai la casa Tresivio in provincia di Sondrio perché Radio 24 ti ricopre di oro. Tocca a me. Per la verità i miei genitori ce l'hanno, la comprò mio papà, ma vabbè, ma io che devo anche stare a giustificarmi. Leonardo, rispondi tu. No, che tu mi ascolti dopo, tu rincari la dose. Aspetta, scollegati che hai un problema, è un problema di app. Prova a ricollegarti. No, no, io dico, mi sono già ricollegato, come avvocato difensore. Sono già ricollegato. Pronto? Sì. Sono già ricollegato. Sì, pronto. È questa, ma che è? La radio? Radio 24? Sì, la radio 24. Sono già ricollegato, sì, ma mi ha cambiata la voce. Ogni volta che mi ricollego cambia la voce. Non so se è un problema. Riproviamo, dell'app. Riproviamo. Provi allora, a scollegarsi, riproviamo un attimo e si ricolleghi. Riproviamo. Provo a scollegarmi. Prova. Allora, si bisogna fare adesso chiarezza, non l'ho interrotta quando stava parlando no, lei, gentilmente, no, Garocio, si scolleghi e si ricolleghi. Lei abbia, si mandiamo un lino del partito super, no, no, super sovranista italiano, no, PS, manco lo sai tu, il PS, no, mandiamolo, partito, no, dal pescatore, no, regia, poi si può scollegare, vediamo se cambia la voce, si può scollegare, l'inno. No, no, non si può togliere l'inno del Pisci una volta che è partito. Adesso mi scollego, super sovranista italiano. Ma si scolleghi intanto, si scolleghi. Si scolleghi, si scolleghi. Vediamo un po'. Manera? Manera? Mi fai schifo come persona, mi fai schifo. Cane, ti spacco la testa. Anche tutti gli ascoltatori di Radio 24. Andate ad ascoltare Tu Belle Monella. Da un po' che no, mancava, andate ad ascoltare Tu Belle Monella, non Radio 24. La del potere che mi fa schifo, il potere, il 5G, vabbè, e tutte le cose così. Vabbè. Cani, spacco la testa a tutti. Sì, questo è un po' il clima con cui accogliamo Rita Pelusio. Rita, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. È partita la pazzia. È partita la pazzia. Scusa. Mancate, ragazzi. Anche tu. Moltissimo. Allora, Rita Peluso, lavoratrice del mondo dello spettacolo. Ho letto stamattina che c'eri, Rita, non lo sapevo, mi fa piacere. Ciao, ciao. Ecco, vedi, cioè, prima gaffa, cioè fa una manifestazione per i lavoratori, lavoratrici dello spettacolo, e Manera manco la nota. Questo fa capire. Aspetta, Ale, ti devo dire che Manera ci ha sostenuto e ci sostiene dall'inizio, ed era addirittura il 30 maggio con noi in Piazza Duomo, e dalla piazza ha fatto un monologo bellissimo. Quindi io vi ringrazio, perché so che più volte avete tenuto alto la causa. Se molti altri facessero questo sarebbe bellissimo. No, ma perché noi, cioè adesso al di là di Leonardo ovviamente che lavora qui, ci interroghiamo davvero sul mondo dello spettacolo, che è per primo ha chiuso e per ultimo riaprirà, con tanti lavoratori, tantissime lavoratrici che si pensa siano a contratti dorati e invece hanno uno stipendio da portare a casa alla fine del mese. E ieri avete manifestato, perché aprono i teatri, ma aprono come, Rita, avete capito? Sì, no, nel senso, ieri in realtà c'è stata questa riapertura che però diciamo tutti che è una falsa ripartenza, nel senso non tutte le strutture possono riaprire. Poi ci sono sempre questi errori, no? Ma questa è anche un po' l'opinione pubblica. Come hai detto tu prima, si pensa che il lavoratore dello spettacolo sia solo il volto noto, che è ricco, no? Che guadagna un sacco, guarda anche il messaggino, a te chiedono di giustificarsi, no? Per la casa. Cioè, c'è molta questa, io poi dico, questa confusione dovuta anche al fatto che viene sempre collegato il volto e non si sa tutti i lavoratori che ci sono dietro. Idem vale per le strutture, noi diciamo apre, nel caso di Milano, apre il Piccolo, apre il Parenti, allora il teatro riparte. Allora, a parte i finanziamenti dati alle grandi strutture d'eccellenza di una città come Milano, però non dobbiamo dimenticarci che il vero teatro, cioè l'humus teatrale e quindi anche la fonte di reddito, di guadagno per tantissime compagnie, attori, tecnici, arriva anche dai piccoli teatri, che invece sono schienati, che non possono riaprire. Io ti posso parlare dei miei esempi, a me è saltato tutto luglio, cioè, ma proprio in toto, e qualche data addirittura che avevo a settembre, cioè, quindi la riapertura non è vera, apre solo chi può, chi ha la gran parte dei finanziamenti, chi ha la struttura per permetterselo, ben venga, è un primo passo, però non è una ripartenza per tutti. E ma poi voi esattamente cosa chiedete nel manifestare? Tra l'altro doveva venire anche il ministro Franceschino, doveva intervenire in qualche modo. Lui non è venuto, e cioè questa cosa è gravissima, ha perso un'altra occasione di confronto, perché lui prima o poi deve ascoltare, e comunque ha mandato un video messaggio, no? Questo io ieri ridendo, ma neanche troppo, ho detto, ecco, ha già iniziato col suo Netflix della cultura, no? La sua cultura da remoto. E noi fondamentalmente le richieste proprio primarie sono un reddito di continuità che possa sostenere tutti i lavoratori fino alla ripresa dell'intero comparto, quindi diciamo fino al 2021 come avviene negli altri stati europei, e questo veramente lo chiediamo a gran voce, e poi di essere convocati dal Consiglio Superiore dello Spettacolo, che deve convocare e audire tutte le rappresentanze di categoria per ricostruire una normativa. Certo. Il cellulare un po' ci ha abbandonato, perché Leonardo, c'è sempre questa sensazione, l'hai raccontata mille volte, che il mondo dello spettacolo sia quel mondo un po' così sotto traccia, che non è importante, perché il mondo, e invece è un mondo che dà da mangiare a centinaia di migliaia di persone, e poi è un settore importante, un settore produttivo. Certo, non fate tondini poi in acciaio, ecco, ma neanch'io se è per questo. Sì, Ale, così. Appena ho detto convocati dal Consiglio Superiore dello Spettacolo, è caduta la linea, non riesco a dirlo. Complottoni. C'è un complotto contro di noi. No, comunque, ovviamente bisogna pensare a colmare questi vuoti normativi, sia a livello contrattuale, perché ci sono un sacco di forme contrattuali, no? E soprattutto si spera di arrivare al concetto francese dell'intermittenza, diciamo, ecco, per dirla breve. sono morta, ecco, di nuovo. Sei morta di nuovo, sulla Francia. No, adesso ci sei. Cosa succede in Francia? Ma no, è perché sicuramente ci sono, a parte che c'è proprio un altro concetto di tutela mm-hmm. e di rispetto della cultura, e poi il concetto dell'intermittenza, che è un po' quello che chiediamo noi, cioè questo reddito di continuità. Se un lavoratore francese non sta lavorando, comunque sì, riceve un sussidio, noi no. Certo, no. Questa è la richiesta numero uno, e poi insomma sperare che riapra. Tu, Leonardo, hai qualcosa da aggiungere? Insomma, tante volte ci hai già raccontato di questo settore che ti vede protagonista. Cosa si può fare? Il problema, come ha detto Rita, è per quelli che non fanno parte dei grandi enti, quando poi in realtà la gran parte dei lavoratori dello spettacolo, sia di chi sta sul palco sia chi sta dietro le quinte, non fa parte di quei grandi enti. Quindi grandi festeggiamenti per alcuni teatri che hanno cominciato a fare qualcosa, insomma, sì, va bene, ma poi manca tutto il resto. Poi ricordiamo che si apre con una capienza di 200 persone massimo, l'abbiamo già raccontato. Quindi se un teatro ha, che ne so, gli Arcimboldi a Milano, deve aprire con 200 persone, insomma tiene credo 1500 posti, 200 persone, compresi tutto lo staff della compagnia, dei dipendenti, dei vigili del fuoco, eccetera. Allora Rita, per il momento è una situazione devo dire una cosa bella che è successa ieri, sì, questo devo dirlo per onestà intellettuale. Intanto il sindaco Sala non solo ha espresso solidarietà, ma ha proprio dichiarato la voglia di collaborare mm-hmm. e probabilmente verrà all'assemblea pubblica, perché questo coordinamento si ritrova tutti i mercoledì alle ore 18, certo, al Teatro Burri di Parco Sempione, dove abbiamo avviato un percorso virtuoso proprio per stare insieme e portare avanti, insomma, le nostre richieste. Quindi da parte del Comune, possiamo dire, di Milano, nella figura di Sindaco Sala e l'assessore sì. Filippo Del Corno, c'è stata una risposta molto bella. Sì, solidarietà. Allora Rita, facciamo così, che siamo un po' in ritardo, tutto il resto chi vivrà. Siamo un po' in ritardo con il traffico. Ti ringraziamo molto Rita e ci sentiamo presto, andiamo al traffico. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free, dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni e aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, andiamo a chiudere questa puntata con un graditissimo ritorno, perché torna con noi la sardina Elenio Mariotti, educatamente con noi. Buongiorno Elenio. Buongiorno, è importante parlare sempre educatamente, no? Questa è la cosa fondamentale, educatamente. È l'unica cosa che ho capito. L'educazione è la, capito, no? È la cosa fondamentale sì. in tutti i rapporti umani, questa è la cosa che voglio sottolineare, capito? Infatti Elenio, è bello perché siete tornati dopo qualche mese di stop, finalmente si parla ancora di voi. Sì, ma con educazione, infatti sì, la cosa che contraddistingue certo. le sardine cos'è? L'educazione. Cioè, ecco. Per esempio, noi non ci mettiamo mai le dita nel naso, neanche in macchina. Perché se poi c'è rosso al semaforo e quelle delle altre macchine ti vedono, e non mangiamo mai con le mani, neanche il pollo, cioè perché si può anche mettere la maionese, no? Ma sempre con educazione, spremendo il tubetto dal fondo, cioè questa sempre. È una battaglia che ci sentiamo di portare avanti, il tubetto bisogna schiacciarlo dal fondo, anche dal quello fondo. Del dentifricio. È una questione di educazione, le sardine sono tutte educate. Sì, sì, ecco, perché io non ho ancora capito chi siano le sardine, se ce lo spiega finalmente chi sono, ecco, ci fa un... Ecco. Beh, ma le sardine siamo noi, cioè con i nostri pregi, difetti, affetti, le nostre abitudini, i nostri gusti, i nostri denti, i nostri nasi, le nostre orecchie. Nelle sardine c'è qualcuno alto, qualcuno basso. L'importante è che quelli alti non stiano davanti, perché altrimenti quelli dietro non vedono niente. Soprattutto se quelli alti hanno il cappello. Hanno il cappello quelli alti e quelli dietro non vedono niente. Adesso però voglio dire che per noi è arrivato il momento di esporci. Dobbiamo avere il coraggio di dire in cosa crediamo davvero. In cosa crediamo noi davvero? Nella felicità. Nella felicità. Bisogna essere chiari fino in fondo, bisogna dire che la felicità è educata e la tristezza non è mica educata. Se c'è felicità puoi fare tante cose, per esempio cambiare una lampadina, organizzare un karaoke, innaffiare una piantina, ma sempre con lo spruzzino. Con lo spruzzino innaffiare la pianta. Perché se c'è felicità non serve mettere troppa acqua, altrimenti la piantina affoga. Hai capito? Senta, ma visto che parliamo di concretezza, non so, ci sono le regionali, ecco, avete in programma qualche passo in vista? Io voglio dire solo una cosa, se scegli di lavare a 60 gradi per eliminare meglio i batteri, va bene, è una tua scelta, io la rispetto. Poi però non ti lamenti, poi però non ti lamenti se ti si smollano gli elastici delle mutande, cioè sono stato un po' diretto, no? Ma mi permetto a parlare anche in nome di tutti. Quando dico che è più comodo il detersivo liquido di quello in polvere. Cioè, sì. Questo non voglio dire che vada bene solo il detersivo liquido, ognuno deve essere libero di decidere quale detersivo usare. Noi preferiamo il detersivo liquido perché è meno aggressivo. Sì, ma le regionali. Ma rispettiamo anche chi sceglie il detersivo in polvere, non conta come si fa educato. No, perché ma parlo siamo un con po' educazione. Ma il nome di un candidato presidente che potreste sostenere? C'è una roba concreta, bucato? Allora io, qui voglio rispondere chiaramente. Allora io mi ricordo che da bambino il mio colore preferito era il blu. Poi una volta l'ho mescolato con il giallo e ho fatto il verde. E allora mi sono detto, ma che non è neanche male neanche il verde. Quindi poi il mio colore preferito è diventato il verde e dicevo a tutti che mi piaceva il verde. Poi una volta mia mamma mi ha chiesto se volevo provare a mescolare il blu con il rosso. Ho fatto il viola. Cioè, non è male capito, neanche ma il viola. Ma io gli ho chiesto se sostenete qualcuno. Allora, esatto, sto rispondendo. Vale la pena di chiederci se va bene usare sempre lo stesso pennello e cambiare solo l'acqua oppure se è meglio buttare via tutto e comprare dei colori nuovi. Cioè dobbiamo essere consapevoli che è anche un po' colpa nostra se i colori non sono più quelli di una volta. È questione di educazione e mi scuso se ho alzato i toni. Ho alzato un po' i toni, ma ho voluto essere molto esplicito, molto chiaro. Ma signor Elenio, io mi devo fermare qui perché il tempo è finito. La ringrazio, insomma, è sempre molto educato lei, questo non si può negarlo. Guarda, però, quando esci di sera d'estate è sempre meglio portarsi un maglioncino di cotone. Puoi metterlo sulle spalle, annodarlo in vita, sul braccio. Poi magari non ti serve. Va però bene, signore Elenio. Ce l'hai. Però ce l'hai, ce l'hai. A domani. Uno, nessuno. Uno, nessuno. Nessuno, 100.000.